Capitolo dodicesimo. Qua a me, Meleto, di, non ti sta assai a cuore che divengano buoni quanto si può i giovani? A me sì. Via, di a costoro chi li fa migliori. Lo dai sapere se ti sta a cuore, tacché trovato hai, come tu di, chi li guasta. E me trai al cospetto di costoro e me accusi. Via, chi li migliora, mostralo. Chi è? Meleto, tu taci e non sai che dire. E non ti pare brutta cosa? E non ti par sufficiente prova di quel che dico io, che dei giovani non te ne sei curato niente? Ma Dio, buono uomo, chi li migliora? Le leggi. Ma non dimando questo io, o ottimo uomo, ma sì chi prima conobbe ancora questa medesima cosa, le leggi. Costoro, Socrate, i giudici, come Dio, Meleto, costoro sono atti a educare i giovani e li migliorano. Sì, certo, tutti, o alcuni di loro sì, altri no. Tutti. Che buone novelle per Giunone! Oh, la gran gente che giova! E questi qua, gli uditori, li migliorano o no? Ancora questi? Chi? E i consiglieri? Ancora i consiglieri! Ma, Meleto, i giovani li guastano forse quelli dell'assemblea? O li migliorano ancora quelli? Ancora quelli! Tutti gli ateniesi, dunque, come pare, li fan belli e buoni. Eccetto me. Solo io guasto. Così di tu? Così, così dico io. Oh, la grande sventura che mi dici e rispondi. Ti pare il medesimo anche dei cavalli? Tutti li migliorano e solo uno li guasta. O al contrario, li può migliorare solo uno o pochissimi, i cavallerizzi. E i molti, se hanno a far con cavalli e li adoperano, li guastano. Non è così, o Meleto, e dei cavalli e di tutti gli animali? Bene, è così. O che tu e Anito diciate sì o no. Che sarebbe gran beatitudine quella dei giovani, se fosse vero che uno solo li guasta e gli altri li migliorano. Ma, o Meleto, ben mostri non aver pensato mai ai giovani, e prova ne dai chiara. E non di meno, sotto specie d'amore a questi giovani dei quali non ti sei curato niente, tu qua mi meni. Capitolo tredicesimo. E per Giove, ci dio, Meleto, se è meglio abitare fra buoni o fra malvagi cittadini. Caro, rispondi. Non è niente difficil cosa quella che dimando. E i malvagi, a quei che tutto di li accostano, non fanno del male e del bene i buoni? Sì, e ci è chi voglia essere da quelli danneggiato con i quali conversa piuttosto che giovato? Rispondi, o buono uomo, dice anche la legge che si ha a rispondere. C'è chi voglia essere danneggiato? No. Su, via. Tu trai qua me, come un che corrompe e fa malvagi i giovani volontariamente o involontariamente? Volontariamente, dico io. Che, o Meleto, tu all'età tua sei tanto più savio che non io all'età mia, che tu conosciuto hai che i cattivi sempre fanno del male a quelli che li accostano e i buoni del bene. E io son così ignorante che financo ignoro che se alcuno farò malvagio di quelli che conversano meco, starò nel pericolo di ricevere del male io da lui. Così ignorante che fo cotesto male come di tu volontariamente. Non te lo credo né io né nessun altro, ma o non corrompo, o semmai involontariamente, sicché in tutti e due i casi tu mentisci. E se involontariamente, per tali involontari peccati non è di legge trarre qua alcuno, ma sì bene averlo a sé da parte, ammonendo e insegnando. Egli è chiaro che più non farò quel che io fo involontariamente quando avrò appreso. Ma ti sei scansato dallo starti con me e dall'insegnarmi. Non hai voluto. E mi meni qua, dov'è di legge che coloro siano menati i quali han bisogno di castigo, ma non di insegnamento. Capitolo quattordicesimo. Ma, Ateniesi, come io diceva, manifesto è che Meleto di queste cose non se n'è curato mai, né molto, né poco. Niente di meno, di, come affermi tu, o Meleto, che io corrompo i giovani? O non è chiaro, secondo l'accusa che hai scritta, che insegnando a non credere in quegli dii nei quali la città crede, ma bensì in strane cose demoniache e nuove, non di tu che, con insegnare cotesto, io corrompo quelli? Sì, sì, cotesto! E via, in nome di questi stessi dii dei quali si parla, più chiaro di e a me e a questi giudici. Io non posso intendere. Di tu ch'io insegno a credere che ci siano i dii e ch'io stesso credo ci siano i dii. E non sono al tutto ateo, non sono così reo, ma non quelli che la città crede, ma sì bene diversi. E perché diversi, tu mi accusi? O proprio affermi che io stesso non credo niente che ci siano i dii e che cotesto insegno io agli altri? Così affermo che tu non credi proprio niente ci siano i dii. Oh, maraviglioso Meleto! Perché tu di così, sole e luna non credo io dunque che siano i dii come credono gli altri uomini? Per Giove no, giudici, il sole ei dice che è pietra e la luna terra. Anassagora credi tu accusare, caro Meleto, e così sprezzi costoro e li credi così salvatichi di lettere da non sapere che di cotali discorsi i libri di Anassagora, il Clazomenio, sono pieni. Oh, bella! I giovani imparano da me questa dottrina che quando vogliano, con una dramma a dir molto molto, possono comperare dall'orchestra dando la baia a Socrate se se ne vuol fare bello lui e di dottrina si strana. Ma per Giove, ti par così di me che non creda in nessuno iddio? Nessuno, nessuno per Giove! E non ti sia a credere, o Meleto, e a vedere non credi a te neanche tu. Impero che costui, Ateniesi, mi par molto procace e prosuntuoso, e che coteste accuse le ha proprio scritte per procace e prosunzione, e perché giovine. Che gli ha l'aria di un che compone enimma per tentare. Socrate il sapiente o conoscerà che io mi contraddico per pigliarmi gioco di lui o no? E se no, trarrò lui in inganno e gli altri che odono. Che manifestamente egli mi si contraddice nell'accusa, come se dicesse: Socrate è reo perché non crede esserci dii e crede esserci dii. Pare un che burla. Capitolo quindicesimo. Guardate con me, che si contraddice così è chiaro. Tu rispondi a noi, o Meleto, e voi ricordatevi di quello che vi ho pregato in principio, di non mi far rumore se io ragiono nel modo solito. Ci è alcun uomo, o Meleto, il quale creda esserci cose umane sì, ma uomini no? Che risponda, o giudici, e non si dimeni, non ischiamazzi. C'è alcuno che non creda esserci cavalli e cose cavalline sì, che non creda esserci sonatori di flauto e sonate di flauto, sì? Non c'è, o il più buon uomo, se non vuoi rispondere tu, rispondo io a te e a questi altri. Ma a questo devi rispondere tu. C'è alcuno il quale creda esserci cose demoniache e demoni no? Non c'è. Che bene mi hai fatto, che alla fine tu m'hai risposto un poco. Ma sforzato. Ora tu affermi che io credo e insegno esserci demoniache cose, nuove o vecchie che siano. Dunque, a cose demoniache credo, secondo che di tu. Hai giurato là e nella tua querela. Ma se io credo in cose demoniache, è ben di necessità che io creda anche nei demoni. Non è così? Così. Perché non rispondi, suppongo che tu consenta. E i demoni non crediamo noi essere i dii o figli di dii? Sì o no? Eh sì! Dunque, se io credo in demoni come tu affermi, e se i demoni son cotali dii, ecco che dico io, tu fai un enimma per fare il grazioso, affermando che negli dii io non ci credo e ci credo. E se poi i demoni son cotai figli spuri di dii, partoriti o da ninfe o da altre che dicono, qual uomo crederebbe esserci figli di dii e i dii no? Sarebbe tal strana cosa quale se alcun credesse esserci figli di cavalli e di asini, i muli, e non credesse esserci cavalli e asini. Ma, Omeleto, una delle due. O m'hai scritto l'accusa per pigliarti giuoco di me e mettermi a prova, o per non trovarmi una vera colpa che tu imputare mi potessi. Ma che ti venga fatto di persuadere alcuno, anche se di piccola mente, che uno medesimo creda esserci cose demoniache e divine, e demoni, e iddii, ed eroi, no, non c'è modo né verso. Capitolo sedicesimo. Ma, o Ateniesi, che non sono io reo di quello che mi accusa Meleto, di molta difesa mi pare che non ci sia alcun bisogno. Queste ragioni bastano. Ma ciò che detto ho dianzi, che io mi sono tirato addosso molto odio e di molti, sapete che è vero. E quest'odio mi perderà, seppur mi può perdere. Non Meleto né Anito. Sì, quest'odio o invidia che perdette, e credo perderà altri molti e buoni uomini, perché non è a temere per nulla che me si arresti. Dirà alcuno, non ti vergogni, Socrate, che a tale esercitazione ti sei dato per la quale stai nel pericolo presentemente di morire. Ma io giustamente risponderei a lui, tu non di bene, o uomo, se credi che uno, valendo pur poco, abbia a ragionare il pericolo della vita o la morte quando fa alcuna cosa, e non considerare solo se cosa giusta fa o ingiusta, se opera fa di buono o di malvagio uomo. Se no, tutti da poco, secondo il tuo discorso, sarebbero quei semidei morti a Troia, tra gli altri il figlio di Tetide, il quale tanto sprezzò il pericolo per non sostenere vergogna, che a lui deliberato di uccidere Ettore, dicendo così come penso io, la madre che era dea, se tu, o figliuolo, vendicherai la morte di Patroclo, il tuo amico, e ucciderai Ettore, morirai. Dopo quello d'Ettor pronto è il tuo fato. Egli, a udire questo, facendo piccio il conto della morte e del pericolo, e temendo la vile vita se gli amici non vendicava, così rispose. Muoia pure io, tosto dopo data la pena al reo, accio che io qua non rimanga a ludibrio presso alle curve navi, peso alla terra. O credi che sia sia angustiato per la morte o il pericolo? In verità è così, o Ateniesi. Dove si pone alcuno da sé medesimo, giudicando essere il suo meglio, o dove posto è da colui che comanda, ivi, ancora che in pericolo, deve stare, non badando niente né a morte né a null'altro, ma sì alla vergogna. Capitolo diciassettesimo. Laonde io avrei operato perversamente, se quando i capitani da voi eletti per comandarmi m'ebbero assegnato il luogo, e in Potidea, e in Anfipoli, e in Delio, nel luogo assegnato da quelli io stetti, sì come qualunque altro, con tutto che in pericolo di morire. E poi, assegnandomi Dio, come ho pensato e supposto, che io dovessi vivere filosofando ed esaminando me e gli altri, qui, impaurito della morte o che altro mai, io avessi abbandonato la ordinanza. Sarebbe assai grave cosa. E allora, ben giustamente si trarrebbe me in tribunale, perciò che non credo negli dii, disubbidendo all'oracolo e temendo la morte, e riputandomi sapiente senza che fossi. Imperocché, cittadini, il temere la morte niente altro è che parer sapienti senza essere. Perché è parer di sapere ciò che non si sa, che nessuno sa della morte, se ella per avventura non sia all'uomo il maggiore di tutti i beni, e ognuno la teme come se ben sapesse essere quella il maggior dei mali. E non è ignoranza, cotesta, la più vituperevole, creder di sapere ciò che non si sa. E io, cittadini, proprio in questo differisco forse dai molti. E se cosa ci è per la quale io affermerei essere più sapiente di alcuno, questa è, che come non so delle cose dell'Ade, così anche credo di non saperne. Ma il fare ingiustizia è il disubbidire a uno migliore, o Dio o uomo, che mala cosa è e brutta, so io. Giammai non temerò dunque, né fuggirò quello che non so se sia un bene, ma sì piuttosto i mali che so essere mali. Onde se anche mi lasciaste ora, non dando retta ad Anito, a lui che disse non bisognava che qua io entrassi, ma entrato, necessità era uccidermi, annunziandovi che se mai io campassi, seguitando gli insegnamenti di Socrate, tutti i vostri figliuoli sarebbero tutti guasti. E se mi diceste anche, o Socrate, ad Anito noi non diamo retta e ti lasciamo, a questo patto, che non passi più il tempo in fare di quelle investigazioni, che più non filosofeggi, se no, se ti cogliamo, morirai. Se, come dico, mi lasciaste, ma a questo patto, io vi direi, miei cari ateniesi, vi saluto, e piuttosto ubbidirò a Dio che a voi. Insino a che io ho fiato e forze, non cesserò di filosofare e di dare avvertimenti e consigli a voi e a chiunque mi avvenga, dicendo come son solito, «O ottimo uomo, tu che sei ateniese e di una gran città e gloriosissima per sapienza e possanza, non ti vergogni di aver cura delle tue ricchezze, acciò che quanto si può elle si moltiplichino e della reputazione e dell'onore». E non avere poi cura e sollecitudine della sapienza e della verità e dell'anima, acciò che, quanto si può, buona ella divenga. E se alcuno di voi mi oppone che ben egli ne ha cura, non lascerò così tosto, non anderò via, ma lo interrogherò ed esaminerò ed scruterò. E se mi pare che egli non possieda la virtù, pur dicendo di sì, lo riprenderò perocché ha vile ciò che è pregevolissimo e ha in pregio ciò che è vilissimo. E questo fo con giovani e vecchi, in chiunque mi avvenga, con forestieri e cittadini, e più con voi cittadini, perché mi siete prossimi più voi di nascita. Che sappiate, questo mi comanda l'Iddio, e io credo che niuno maggior bene abbia la città vostra che questo ministerio che fo all'Iddio, questo mio andare attorno non facendo altro che confortar voi, e giovani e vecchi, a non prender cura né dei corpi, né delle ricchezze, né prima né più dell'anima, acciò che, quanto si può, ella divenga buona. Dicendo che non da ricchezza viene virtù, ma sì da virtù vien ricchezza ed ogni altro bene, e ai cittadini e alla città. E se dicendo cotesto corrompo i giovani, pernicioso è quello che io dico. Ma se alcuno afferma che non cotesto, ma sì bene altro insegno io, afferma quel che non è. E soggiungerei, ateniesi, diate retta ad Anito o no, mi assolviate o non mi assolviate, io non farò altrimenti. Neanche se molte volte io avessi a morire. Capitolo diciottesimo. Non rumoreggiate, ateniesi, per quel che dico, ma state quieti a udire come vi ho pregato, che, udendo, penso che ne riceverete giovamento, perché altre cose vi ho a dire io, che forse vi faranno gridare forte, ma no, state quieti. Via, sappiate che se ucciderete me, che son quale dico, più che me, danneggerete voi medesimi. A me non farebbe niuno danno né Meleto né Anito, che non potrebbero, imperocché, secondo che credo io, non è lecito che il più buono possa essere danneggiato dal più tristo. Ucciderebbe egli, o caccerebbe in bando, o disonorerebbe, che forse le dette cose egli e alcun altro credono grandi mali, ma io no. Male piuttosto è fare quello che costui fa, tentare di uccidere ingiustamente un uomo. Dunque, io non difendo ora me per me, come penserebbe alcuno, ma per voi, acciò che, condannando me, non pecchiate contro il dono di Dio. In vero, se mi ucciderete, non vi sarà agevole cosa, la dirò anche se for ridere, trovare un altro come me, messo da Dio addosso alla città come addosso a grande e generoso cavallo, ma per la grandezza, un poco sonnolento e abbisognoso di essere destato da sprone. Che con tale ufficio direi che Dio ha deputato me alla città, me che scotendo, persuadendo, rampognando, vi sto tutto il dì addosso. Sì, cittadini, un altro come me non vi nascerà facilmente, e voi, se mi date retta, mi risparmierete. Ma forse, da subita ira presi come sonnecchianti desti per forza, tirando calci, dando retta ad Anito, uccidereste leggermente e consumereste la rimanente vita dormendo, seppure l'Iddio non mandasse alcun altro, avendo di voi cura. E che io sia alla città un dono di Dio, potete intendere, considerando che non par cosa umana, che abbia trascurato i fatti miei, la mia casa, già è tanti anni, e curi i fatti vostri, stando ai fianchi di ciascuno predicando virtù, come padre o come fratello più vecchio. E se da questi conforti e consigli mia utilità ne traessi, se ne ricevessi mercede, ci sarebbe una ragione. Ma vedete anche voi che gli accusatori, pur accusandomi di tante altre cose spudoratamente, non hanno avuto tanta spudoratezza da addurre testimoni che io abbia patteggiato mai o dimandato mercede. Ma io, un buon testimone, credo di avercelo, che io dico vero. La povertà. Capitolo diciannovesimo. Apparrà strano che io dia consigli in privato, andando attorno e affaccendandomi, e non ardisca montar su e in pubblico dare consigli alla città, in cospetto del popolo. La cagione l'avete da me udita molte volte, cioè che m'avviene un che divino e demoniaco, come disse nella querela anche Meleto, pigliandosene gioco. Ed è una cotale voce che sino da fanciullo sento io dentro. E tutte le volte che io la sento, mi svolge da quello che son per fare. Sospingere non sospinge mai. Ella mi si oppone che non metta mano nelle cose della città. E mi par che ha ragione, perché, ateniesi, sappiate bene che se da un pezzo ci avessi messo mano, da un pezzo sarei morto, e non avrei niente giovato né a me né a voi. Non mi andate in collera se dico il vero, che uomo non si salva, chiunque sia, a voi o ad alcun'altra moltitudine generosamente contrastando e impedendo che cose ingiuste siano fatte nella città e contrarie alle leggi. Ed è necessità a chi combatte per la giustizia che non viva egli in pubblico, seppur vuole salvarsi per picciol tempo, ma sì privatamente. Capitolo ventesimo. E di ciò vi arrecherò grandi prove io medesimo. Parole no, ma sì ciò che apprezzate voi. Fatti. Udite dunque quel che m'avvenne, acciò che sappiate che io né cederei a nessuno contro giustizia per paura di morte, né, se morire dovessi subitamente, per non cedere. Vi dirò cose giudiziali, dolorose, ma vere. Io non ebbi mai, ateniesi, alcun maestrato in città. Sì, fui un del consiglio. E avvenne che quei della mia tribù, Antiochide, facessero da pritani, quando voi, i 10 capitani, che non recuperarono i naufraghi e i morti della battaglia navale, voleste giudicare tutti insieme contro legge, come, passando tempo, vi foste accorti voi medesimi. Allora io solo dei pritani mi fui opposto a voi, acciò che nulla fosse fatto contro le leggi, e votai contro. E già gli oratori, lesti a interdirmi, menarmi in carcere, incorandoli, gridando voi. Ma io pensai meglio mettermi in pericolo con la legge e con la giustizia, che con voi starmene deliberanti la ingiustizia, per paura di catene e di morte. E questo fu reggendosi tuttavia la città a popolo. Venuta la oligarchia, un dì 30 alla loro volta, mandarono chiamando Certuni e me, Quinto, nella sala del Tolo, e comandarono che dovessimo menare via da Salamina Leonte il Salaminio, affinché morisse. E scelleratezze simili ne ordinaron molte e a molti, volendo quelli riempire di colpe quanti più potessero. E allora non a parole mostrai, ma sì a fatti, parrò rozzo, che non cale a me nulla della morte, proprio nulla, ma di non far cosa niuna ingiusta né empia, di questo mi cale bene assai. Perocché sì non mi spaventò quella signoria con tutto che violenta, che cosa niuna ingiusta facessi, che, usciti di quella sala, i 4 s'avviarono per Salamina e menarono Leonte, e io mi avviai a casa. E forse io era morto se quella signoria non la cacciavan giù presto, e di questo che dico, eccovi molti testimoni. Capitolo 21. E credete che poteva durar tanti anni se io era in pubblici uffici sostenendo, come si conviene a da bene uomo, il giusto, e di quello come egli è debito, facendo estimazione più che di ogni altra cosa? Oh no, ateniesi, né io né verun altro. E io per tutta la vita e in pubblico, se feci mai cosa alcuna, tale apparirò e tale in privato, come a niuno mai concedente nulla contro il giusto, chiunque fosse, a niuno, neanche di questi che i miei calunniatori chiamano miei discepoli. Io poi non fui maestro mai di alcuno. E se parlando e badando io ai fatti miei, alcuno mi vuole udire, sia giovane sia vecchio, non ho detto no mai, né se mi dan danaro in mano apro bocca, e se non me ne danno no. Ma similmente, e a ricco e a povero, mi profferisco per interrogare se voglion rispondere e stare a udire quello che dico io. E o buono diventi alcuno di loro o no, dire che la cagione sono io non sarebbe giusto. Io, che a niuno di loro né ho promesso mai di insegnare, né ho insegnato mai niuna dottrina. E se alcuno dice aver mai imparato o udito da me cosa privatamente, la quale tutti gli altri no, sappiate che non dice vero. Capitolo 22. Ma perché mai alcuni godono a passar con me il tempo? Voi, ateniesi, l'avete udito, e io vi ho detto la verità. Essi godono a udire e esaminare quelli che si credono sapienti e non sono. Certo, ella è cosa non spiacevole, e come io affermo, a me è stato commesso da Dio che facessi questo, per vaticini e per sogni, e per tutti quei modi che divino fato in ordinar cosa alcuna a uomo usati mai avesse. E queste, o ateniesi, sono cose vere e ben si dimostrano, imperocché se dei giovani quali corrompo io, quali io ho corrotto, bisognava se alcuni di essi venuti su di anni conobbero che io a loro da giovani detti mali consigli, che montati quassù m'avessero accusato e preso di me vendetta. E non volendo essi, bisognava che padri, fratelli, congiunti, semmai quei di loro casa ricevettero da me alcun male, ora se ne ricordassero e se ne vendicassero. Molti di loro sono qui presenti, io li vedo. Prima Critone, qui, della mia età e della mia tribù, padre di Critobulo, qui. Poi Lisania, lo Sfettio, padre di Eschine, qui. E anche Antifonte, qui, il Cefisiano, padre di Epigene. E questi altri qui, fratelli dei quali conversarono meco. Nicostrato, il figliuolo di Teozotide, fratello di Teodoto. Teodoto poi è morto e non pregherà che stia zitto. E Paralo, qui, il figliuolo di Demodoco, del quale era fratello Teagete. E questo Adimanto, figliuolo di Aristone, del quale è fratello questo Platone, qui. Ed è Antodoro, del quale è fratello Apollodoro, qui. E vi posso nominare altri molti, alcuno dei quali bisognava bene che Meleto messo avesse innanzi come testimonio nella sua orazione. E se allora se ne fu dimenticato, lo metta innanzi ora. Io gli cedo il luogo. Se li ha, parli. Ma, cittadini, troverete tutto il contrario. Tutti pronti ad aiutare me, il corrompitore, colui che ha fatto male a quelli di loro casa, come dicono Meleto e Anito. Forse i corrotti avrebbero alcuna ragione di aiutarmi, ma i non corrotti, uomini già vecchi, parenti loro, quale altra ragione hanno aiutandomi, se non la diritta e la giusta, la quale è che Meleto essi sanno che mentisce e che io dico vero.